Guarda se io dovevo innamorarmi proprio di te. Di te così lontana dal mio mondo di tutti i giorni. Di te così diversa da me, dalla mia vita. Guarda se io dovevo innamorarmi di te. Guarda se io dovevo amarti tanto come ti amo. Io che passo le ore per convincerti a cambiare. E non ti cambierei con nessun'altra al mondo. Guarda se io dovevo innamorarmi di te. A volte io vorrei che tu non fossi così come sei, ma in fondo non so neppure io. Guarda se io che ero così sicuro della mia vita, dovevo incontrar te ed ecco da un momento all'altro nel mio mondo di ieri non capirci più niente, nel mondo di domani vedere solo te. A volte io vorrei che tu non fossi così come sei, ma in fondo non so neppure io.